Guardo lo specchio e vedo un uomo depresso e vecchio in amore. Guardo quello che nasconde, l'immagine sa di un uomo disperso tra le onde in dolore. Guardo nell'anima e vedo un cigno elegante in volo in rima che vuole volare in un sogno. Pago tutte le cose più brutte sulla mia pelle, col denaro del sangue, niente rose rotte in me, perché le amo con raro affetto, ispirato con fiati di pace, diventando pesce d'amore, rapace dei confini del cuore. Ho sconfitto fantasmi invincibili, eclissando l'amaro del mondo, fondo immaginario di veleno nobile, d'anima trafitto da inutile ricordo, diventando pece di cuore, rapace di confini d'amore. Ho amato fratelli con tutto l'affetto che potevo dare, conducendo sul mio volto rovi di rose gialle, effetto di sogni immensi che m'hanno travolto, diventando pece di cuore, rapace di confini d'amore. Guardo lo specchio e vedo un uomo depresso e vecchio in amore. Guardo quello che nasconde, l'immagine sa di un uomo disperso tra le onde in dolore. Guardo nell'anima e vedo un cigno elegante in volo in rima che vuole volare in un sogno. Che vuole volare in un sogno. Ore lente diventano ore veloci, incanti di gente persa in sogni, veraci di trovare spiragli degni per trovare vie di salvezza audaci, diventando pece d'amore, rapace di confini del cuore. Diventando pece d'amore, rapace di confini del cuore. Guardo lo specchio, vedo un uomo depresso e vecchio in amore. Guardo quello che nasconde l'immagine, sa di un uomo disperso tra le onde in dolore. Guardo nell'anima e vedo un cigno elegante in volo in rima che vuole volare in un sogno. Vuole volare in un sogno. Pago tutte le cose più brutte sulla mia pelle, col denaro del sangue, niente rose rotte in me, perché le amo con raro affetto, ispirato con fiati di pace, diventando pece d'amore, rapace di confini del cuore, rapace di confini del cuore. Ho sconfitto fantasmi invincibili, eclissando l'amaro del mondo, fondo immaginario di vecchio nobile, d'anima trafitto da inutile ricordo, diventando pece di cuore, rapace di confini d'amore. Diventando pece di cuore, rapace di confini d'amore, il cuore bruciato da un volo, dall'alto in caduta di fuoco, riarde le ali solo se le mani non purificati dalla nazione strappano via l'ultimo eco.